Io avrei parlato volentieri anche di Twitter oggi. A proposito di cosa? Tieni conto che io sono tornata alle 6 del mattino dopo aver montato un capannone. Ma è successo qualche giorno fa, per combinazione, proprio in contemporanea con l'inizio delle proteste in Francia per la morte di Nahel, Twitter ha bloccato l'accesso ai suoi post, a meno che non si sia loggati. Cioè devi avere un account Twitter per leggere quello che passa in Twitter. Questo non è un piccolo cambiamento. No, non lo è. Di fatto Twitter da un po' di tempo a questa parte è una delle forme di espressione di buona parte dei nostri politici, possiamo dire, ma anche, diciamo così, della politica internazionale. Cioè ricordiamo che comunque Trump è famoso per aver fatto parte della sua propaganda su Twitter. Quindi Trump sì, è famoso per questo, ma poi è stato scalciato via da Twitter. Quello è, tra l'altro, stato secondo me interessante perché è stato uno degli esempi più evidenti del fatto che Twitter applica di fatto una selezione sui propri contenuti. Ma la domanda è: nel momento in cui io faccio parte di una piattaforma libera, ho o non ho il diritto di dire quello che voglio e di avere accesso a una diffusione delle mie opinioni uguale, se non pari, a quella delle altre persone? Ah, tu parli del diritto d'espressione. Qua mi fai venire in mente una famosa canzone dei Clash che si chiama I tre diritti. Conosci i tuoi diritti, sono tre, diceva quella famosa canzone. Conoscili tutti e tre, mi raccomando. E a proposito di quella della libertà d'espressione, diceva che hai il diritto alla libertà d'espressione, basta però che non lo usi. Esatto, esatto. Ma anche lì, cioè, io non credo che esistano diritti naturali per l'uomo. Penso che i diritti siano qualcosa che ci vengono riconosciuti vicendevolmente tra le persone. Quindi nel momento in cui le persone di fatto non ti riconoscono un diritto, dire che tu quel diritto ce l'hai è chiaramente qualcosa che va contro quello che succede davvero nella pratica. Quindi dobbiamo anche chiederci se a un certo punto quelli che noi consideriamo i nostri diritti naturali, tra cui il diritto di espressione, ma anche il diritto al lavoro. Credo che la lista dei diritti naturali dell'uomo sia lunghissima e largamente ignorata in questo mondo odierno. Però di fatto, secondo me, è interessante capire che i diritti esistono fin tanto che ci vengono riconosciuti. Quindi pensare che noi nasciamo semplicemente con il diritto e che questo faccia sì che in qualche maniera noi quel diritto ce l'abbiamo quando viene continuamente calpestato, forse non è così. E come diritti, uno dei diritti che mi viene in mente è il diritto a non essere ucciso, diritto alla vita, insomma, che è un diritto che sembra scontato, ma non è detto che lo sia completamente. Però cosa da dire, Lero? No, se quando vuoi agganciarti a... Vabbè, sì, allora, di sicuro il diritto alla vita è uno di quei diritti su cui sarebbe ottimo portare avanti un dibattito pubblico fatto per bene, cercando di trattare tutti gli aspetti possibili. Di fatto, come per le leggi, il problema dei diritti non è soltanto scrivere sulla carta quello che uno ha diritto di avere o di ottenere, barra il rispetto e i confini con cui deve essere trattato, ma sono anche questioni che riguardano la pratica. Cioè in ogni momento della nostra vita noi comunque siamo per qualche motivo in conflitto con gli altri, o per qualche motivo diciamo così possiamo non essere rispettati da chi ci circonda. Ed è lì che a un certo punto bisogna, con il dialogo, cercare di capire dove, fino a che punto il nostro diritto, appunto, alla vita, all'espressione, ma anche a una dignità, a tutto quello che può essere, deve essere rispettato ed è rispettato. Il problema, secondo me, in generale, è che non se ne parla mai abbastanza. Non c'è nel discorso, ma anche più che pubblico, comune, il domandarsi se di fatto era giusto o meno reagire, trattare una persona in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma addirittura ormai non ci si può neanche spingere all'estremo di un ragionamento per capire fino in fondo le implicazioni che questo comporta, perché ci sono tutta una serie di discorsi che non possono neanche essere toccati né suggeriti né fatti, perché comunque, diciamo così, ci sono varie comunità che dall'alto prescrivono quali sono i discorsi e quali sono gli argomenti, quali sono le parole d'ordine o le parole giuste per trattare un argomento piuttosto che un altro. Questo secondo me non permette quella che Adorno chiamava l'immaginazione teoretica, e lui stesso, tra l'altro, nella stessa frase diceva che il fatto di avere l'immaginazione teoretica, mettiamola così, limitata, apre la strada a quella che lui chiama follia politica, ossia che noi non riconosciamo più che l'ambito della politica si fa tutti i giorni nel nostro agire, e che quindi tutte le belle carte e tutte le belle parole devono poi essere in qualche maniera messe in relazione con il fatto concreto, l'evento concreto, la serie di eventi, le cause e effetto che per qualche motivo vengono a essere problematiche. The Commandments of I, Sophia Khan. Thou shalt not listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. Feminazi or a femoid, and then see if I give a stinking shit. Pseudo intellectuals on the internet. They tell me I'm unhappy because I'm not feminine. Failing to consider that I may be unhappy because it's 3 a.m. and I'm in the depths of YouTube watching them. Whining. Thou may catcall me on the street, but thou should take note that I'll catcall you right back to tell you that you look pretty sexy too in your joggers or your suit or your newfound look of confusion. Or use man-made ideals like PARS. Don't you realize that you're only making a fool of yourself when you ask, why don't you wear makeup? Is that what it takes to impress a bloke whose brain is made up of promises of curvy size zeros and anti-gravity tits? She deserved it because her skirt was too short. She walks home, streetlights illuminating her as a target. But she started it because she looked at him, and he finished it because he wanted to. And they'll bring out her skirt as Exhibit A before the judge, and she should have the right to say, thou shalt not tell me what to wear nor how to wear it. I shall not be the icing on your cake, and I shall not be the candy on your arm. Shall be seen, and I will be heard. The commandments of I, Sophia Khan. Pseudo intellectuals. Ci ci stavamo chiacchierando off the record su se era il caso di ricordare, di dirci brevemente cosa era successo negli ultimi giorni. A proposito di, come diceva Sofia Khan, di You Will Be Heard, si può ricordare che a volte il modo per essere sentiti potrebbe essere quello di fare del casino, perché altrimenti non si sarà minimamente ascoltati. In particolare volevamo fare un piccolo replico di quello che è successo in Francia. Qualche giorno fa, durante le manifestazioni che avvengono oramai da più di 3 mesi in Francia, quasi giornalmente, è stato ucciso un ragazzo di 17 anni di nome Nahel. E Nahel era alla guida di un'automobile di grossa cilindrata e non aveva con sé la patente, perciò è stato fermato da 2 poliziotti in motocicletta, i quali sono scesi dalla motocicletta, hanno puntato una pistola al finestrino e hanno detto: se non scendi ti spariamo. Uno dei 2 poliziotti ha detto: sappiamo questo perché c'è un video ripreso da una persona dal balcone. Dopodiché Nahel ha messo la prima ed è partito, e il poliziotto ha sparato, gli ha sparato direttamente nel cuore. La macchina ha fatto pochi metri e poi si è fermata. I poliziotti non hanno neanche tentato di seguire la macchina, ma come si vede dal video, dopo aver sparato, sono immediatamente tornati indietro verso le loro motociclette, disinteressandosi completamente dell'avvenuto. In seguito Nahel, che è morto, è stato trasportato comunque in ambulanza, e l'ambulanziere che l'ha trasportato, che conosceva la famiglia, dopo averlo trasportato in ambulanza ha fatto un cazziatone tremendo ai poliziotti che erano presenti in ospedale, giustificatissimo, ma comunque gli ha veramente alzato la voce, e di conseguenza è stato arrestato e le ultime notizie sono state che è stato liberato con la condizionale. Gli hanno dato 1 anno e mezzo gli hanno dato una pena di 1 anno e mezzo all'ambulanziere che ha inveito contro i poliziotti. La sera stessa e i giorni dopo la rivolta francese ha aumentato di intensità e Macron, che è il presidente della Repubblica francese, ha aumentato le forze di polizia, annunciando prima 40.000 persone, poi in realtà 45.000 nuovi poliziotti ha mandato, tra cui dei corpi speciali, per cui il corpo dei RAID, che è stato mandato a Marsiglia, sono corpi speciali antiterrorismo che usano dei blindati e armi da guerra, granate. Le proteste sono state vivissime il venerdì sera e anche durante la giornata di sabato, quando si sono svolti i funerali di Nahel, e poi si sono leggermente placate. Leggermente si fa per dire. Una delle cose più odiose che abbiamo notato nel raccontare la storia di Nahel è stato che nei giorni successivi è stato aperto un crowdfunding per fare raccolta fondi per la famiglia di Nahel. E allo stesso tempo però è stato aperto anche un crowdfunding per la famiglia del poliziotto che ha sparato. Non molto chiaro quale sia il supporto che avesse bisogno il poliziotto, ma fatto sta che il crowdfunding per la famiglia di Nahel ha raccolto più o meno 80.000 euro, mentre il crowdfunding per la famiglia del poliziotto assassino ne ha presi 1.5 milioni di euro. La cosa è stata considerata una provocazione immonda per ovvi motivi. La domanda è chi gliel'ha dato 1 milione di euro al poliziotto? Sarebbe da vedere i donatori quali sono stati. La lista dei donatori è pubblica sul sito, ma non, ovviamente si possono mettere anche dei nomi di fantasia. La notizia, se vuoi, drammatica, visto che questa osservazione è stata una delle prime osservazioni fatte, è stata che sono solamente 20 le donazioni di 1.000 euro. O 1.500 che è il massimo, ma la maggior parte delle altre donazioni sono tra i 10 e i 20 euro, perciò ci sono state una grossa quantità di donazioni. Di mini donazioni. E la cosa è stata cavalcata immediatamente dalla destra francese, da Macron e anche dalla sua destra, cioè Marine Le Pen, per giustificare l'operato della polizia. Di fatto questo è abbastanza allarmante, c'è da chiedersi se effettivamente c'è tutta un bacino di persone che per qualche motivo a noi sconosciuto è d'accordo barra vuole aiutare questo, questo poliziotto, o se, come credo in realtà, la, la capacità di fare, di fare cassa di questa, di questo crowdfunding sia dovuto al fatto che semplicemente l'hanno spinto di più sui social, e qua ci riagganciamo a Twitter eccetera, ossia se o qualcosa viene proposto, viene, diciamo così, posto sotto, all'attenzione della gente in maniera positiva o negativa che sia, è possibile che comunque riesca a raggiungere un più ampio bacino di persone che poi decideranno di donare. Può essere semplicemente che in questo caso, come io sospetto, data anche l'importanza, diciamo, di immagine del, dei risultati dei crowdfunding, qualcuno che era interessato ad ottenere questo risultato si sia permesso di utilizzare i mezzi di informazione pubblici e non, per far sì che questa raccolta fondi arrivasse il più lontano possibile, cosa che magari per Nael non è successo semplicemente. E mi viene da dirlo non perché io disistimi l'opinione pubblica, cioè se di fatto buona parte dei francesi è d'accordo con i poliziotti, uno prende atto di questa cosa, ma mi sembra un pochino riduttivo, cioè considerando comunque il potere che hanno i mezzi di informazione dall'alto di modificare la risposta delle masse, di sicuro c'è da domandarsi, e ci sarebbe da fare anche un minimo di inchiestina per capire quanto e come è stato, passatemi il termine, spammato il crowdfunding per questo politico, poliziotto, scusate, rispetto a quello per il ragazzo ucciso. Io comunque l'ipotesi su perché è andata così ce l'ho, poi non dobbiamo innamorarci di un'ipotesi soltanto perché sembra giusta, però in ogni caso a me sembra così. La cosa interessante è che comunque questo ragazzo è stato ucciso all'interno di manifestazioni che riprendono uno dei temi fondamentali della sinistra, ossia la dignità del lavoro, e anche la difficoltà di far passare questo messaggio nel momento in cui, diciamo così, buona parte delle informazioni che hanno risonanza internazionale sono piuttosto di morti e distruzione, quando poi di fatto ci sono delle richieste che tutti, immagino tutti, e tutte le persone che hanno una certa posizione politica potrebbero condividere, ossia che a un certo punto il lavoratore va rispettato fino in fondo, è un pochino inquietante. Ritorna sempre la modalità in cui i media dell'informazione riportano ciò che succede nel mondo. È intervenuto anche l'ONU subito dopo la morte di Nael, invitando il governo francese a monitorare il razzismo all'interno delle sue forze di polizia, visto che pare che le forze di polizia siano gravemente affette da questa malattia. E le forze di polizia non hanno esitato e hanno mandato tramite il sindacato della polizia, francese, di cui adesso non ricordo il nome, un comunicato dichiarando che loro si sentono in guerra e che dunque hanno proprio utilizzato la parola guerra, e che dunque chiedono il supporto del governo per la loro guerra, che evidentemente è contro la popolazione, perché la maggior parte della popolazione è quella che si è trovata in piazza. Credo faccia piacere ricordare anche che la manifestazione in Francia è stata sempre assolutamente pacifica, e per pacifica intendo che non ha nuociuto a persone ma ha solamente rotto degli oggetti, e dunque la definizione di violenza io non la userei in questo caso, nel senso che rompere una vetrina non credo si possa definire violenza, la vetrina non soffre. Ed è in questo contesto, ed è in questo contesto che Twitter ha sospeso l'accesso, la visibilità dei suoi post al di fuori del circuito, del giardinetto interno di Twitter. Cioè, per vedere un post di Twitter bisogna essere loggati, bisogna avere un account di Twitter e essere loggati. Inoltre il capo di Twitter ha fatto sapere qualche giorno dopo che anche essendo loggati c'è un limite massimo al quale si può accedere, che mi sembra sia 300, e invece è molto più alto, forse al giorno, e questo limite invece non c'è o è molto più alto per chi invece ha pagato la spunta blu. Perciò insomma, se hai dei soldi hai più libertà di informazione, ma non solo, se fai 3-4 passaggi di identificazione per essere profilato meglio hai qualche regalo in più. Certo. Resta comunque il fatto che sia appunto cioè significa che nel momento in cui tu vuoi accedere a delle informazioni non sei più libero di farlo in maniera semi anonima, ma devi sempre di più fornire dati per essere riconosciuto e per essere profilato, perché comunque magari un giorno potrà servire sapere che X cercava informazioni soltanto e solo su proteste e cose di questo genere, mentre Y si interessava di spiagge caraibiche e il loro raggiungimento economico. E questo è un po' il punto, anche perché proprio la sera prima che Twitter cambiasse la sua modalità di funzionamento è avvenuta un'altra cosa, cioè il governo francese, nella persona di Darmanin, che è il ministro degli interni, ha fatto un incontro con i principali social, tra cui Snapchat e Twitter, e ha chiesto loro di aiutarli all'interno di questa protesta, perciò di intanto far sapere chi postasse immagini di incendi o di devastazione delle cose che avvenivano in Francia, in modo da poterli individuare, e poi di monitorare che non fossero troppi questi post, in quanto temevano un effetto domino, insomma, che ci fosse che questo soffiasse, per usare la loro espressione, che questo soffiasse sul fuoco. Con questi atti di fatto loro si stanno qualificando come un dispositivo che ha accettato di fornire degli anticorpi al potere per autoalimentarsi e proteggersi, cioè, su questo non c'è dubbio ormai, credo, da parte di nessuno, almeno presente in questa stanza siamo quattro gente, però comunque credo che chi magari si è un attimo fatto due domande si renda conto che tutti i software di informazione, tutti i software di espressione libera comunque in qualche maniera sono ancelle di poteri che noi possiamo considerare come stati, anche se sappiamo che gli stati stessi sono prezzolati perché il finanziamento pubblico a partiti non c'è da un po', e quindi insomma in Italia ma anche in altri posti, e quindi fondamentalmente andiamo così, la gente coi sordi vorrebbe che il sistema continuasse ad andare avanti così, c'è da chiedersi perché, col fatto che comunque chi non ha redditi stratosferici in questo periodo comincia a vivere davvero male. Però di fatto è vero che c'è una guerra che per diversi aspetti assomiglia alla guerra fredda, nel senso che è in discussione non tanto il capitalismo, che ormai purtroppo ha vinto in quasi tutto il globo, ma è in discussione il sistema di controllo imperialista degli Stati Uniti, per cui certi baluardi non devono cadere. Di sicuro la Francia, anche prima del Covid, aveva una serie di gatti da pelare al suo interno, e di sicuro la Francia è terra di rivoluzioni, a differenza d'Italia, dove noi purtroppo, per fortuna, risiediamo. Per cui è chiaro che anche oltreoceano, perché Twitter comunque da oltreoceano proviene e le sue scelte comunque si fanno di là, nel momento in cui la Francia davvero è insidiata come lo è in questo momento, ossia diciamo così, lo Stato e l'assetto di governo francese sono insediate, perché, ripeto, la questione della dignità del lavoro ormai risale a 4-5 anni fa, per cui francesi tutti i sabati, cioè il sabato, giorno di festa, non saltando il lavoro, non facendo niente, cominciavano ad andare in piazza per protestare e per dire che comunque la condizione del lavoratore medio non era più sostenibile. È evidente che anche questa rivendicazione, che non è neanche tra l'altro chissà quanto estremista, stiamo parlando comunque di un argomento che rientra nel welfare state, cioè un qualcosa che comunque il capitalismo storicamente aveva anche accettato, insomma, adesso per come è la situazione, non so se per una questione di rischi che sta correndo l'assetto geopolitico attuale o se è proprio semplicemente una progressiva riduzione degli spazi di protesta, degli spazi di appropriazione che ha il popolo nei confronti dello Stato, perché semplicemente ci hanno levato sempre di più, per cui adesso non si sognano nemmeno di ricordarsi com'era 50 anni fa. Vabbè, detto questo, resta il fatto che davvero si mette in gioco qualunque arma possibile, e mi dispiace, ma io credo, e magari sbaglio, ma quello che credo è questo, cioè che l'informazione di massa sia in realtà la strada per muovere e per condizionare le masse, e non c'è niente di più potente che l'informazione di massa, e da lì si vede quanto e come, diciamo così, il pensiero unico abbia inquinato e sia arrivato ad inquinare tutte le strutture che forse una volta potevano garantire un minimo di libertà. So the legacy, let's talk about the legacy. Just 2 months, spring 1871. People want social changes, then they make them real. People want social changes, following the deal. Cooperative setup, people running their things. All or are the workers the same dignity? No president, no man, no commander in chief. No church, no state, more and more relief. It's the legacy that will lead us. Men and women on a farm. No more children at war. Free school, free clothes, free food for them all. It's a long road for the revolution. Governments pay for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove your ideology. Le drapeau rouge, l'horreur que la foule vous inspire et l'odeur de la poudre. Voleur de l'art pour le prolétaire s'invite au cœur de la cour. C'est notre heure, nos peurs s'éparpillent dans le Paris des barricades et des canons. Sache que les camarades et les damnés de la terre sont tous passés à l'action. Brûler les baillons, on a arrêté de répéter la messe. L'obscurantisme fait place à la fête, on investit l'église et sans payer la quête. Fédéré à la tête de la production, c'est la révolution. On a les solutions, on des salons, démocratisation et gratuité de l'éducation. Les friqués ont flippé face à la grande revanche des humiliés. Ils n'ont pas su anticiper. Gardons en nous la mémoire des fusillés. Car la commune est vivante dans nos quartiers, nos cœurs, nos âmes et nos aigreurs. Que crève le vieux monde et sa laideur. Quand est-ce qu'on crame le sacré cœur? It's a long road for the revolution. Coming out! Got a mix play for emancipation. No time to waste in the confusion. Quand est-ce qu'on crame le sacré cœur? Commune, commune, commune, collective. Remember, we need each other. Respective autonomy, long journey. Know it will. Dusty road with Louise Michel. They're hiding in Versailles again. They starve our children and they kill our friend. Carry on tradition. Waves of resistance. Always been, always be. Free humanity. And if that's our priority, we find a way. Poutonine is all chanté. Death and mana culture in. Long live diversity. Bread and knowledge for all of us. We harvest, cultivate. Ideas don't die, they hibernate. Waiting for us to take, continue. That's Panam. Anger, restless, fear, loathing, caring, learning, fucking, growing, trusting, building, hating, loving, creating. Now she's breathing. It's a long road for the revolution. Academics play for emancipation. Panam. No time to waste in the confusion. Artisans, ouvriers, tous les oubliés. Que ces bourges pillés sans jamais sourciller. Soupillés, surveillés, soumis, sur des dents pour le billet qui les faisait tous plier. Croupiers, trace ceux qui soufflient. Le meilleur des boucliers contre l'ordre à tous trier. Marre de se faire houspiller, d'avoir la frousse crier. Ou ce drapeau rouge qui s'est tous ligué pour se libérer. 18 mars, les parigots fâchés tiendront tête aux armées, les canons seront gardés. 28 mars, la commune proclamée. 2 mois se passent enflammés, du mois de mars au mois de mai. Autogestion dans les ateliers. Plus question de patron ni d'être employé. Fin de l'obligation de payer son loyer. Révocabilité de tous les mandatés. École est publique, gratuité laïque. La commune sépare vite, le rigide des tactiques. Les étrangers admis, citoyens, le programme qu'on imagine pour la suite était déjà entamé. Se passant à Paris, 150 ans dans le passé. Au final, c'est le bain de sang et les corps sont assez mêlés. Communards vivent encore dans nos mémoires, vivra vive l'histoire d'une victoire et ne se rendront jamais. It's a long road for the revolution. Catholics play for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove ya. Since 1871, we want equality for everyone. On the barricades, our artworks, we don't wait for crimes or purge. Free and secular education, partisan self-organization. Equal pay for men and women, we're proud to carry on the demands. We build up the black flag in our heart, taking part of the social struggle. We refuse the leash and the muzzle. It's a long road for the revolution. Catholics pray for emancipation. No time to waste in the confusion. Remove your ideal reaction. Un empire qui s'effondre, c'est le peuple qui se lève. Des lendemains qui se chantent, l'avenir qui se rêve. C'est l'histoire qui se grave par le glaive de la foule. La révolution fleurit par le système qui s'écroule. Reprend le contrôle des canons, on reprend le contrôle de nos vies. Disparus les bourgeois, les patrons. Donc ça légifère l'hôtel de ville. Ça parle de laïcité, d'égalité, de justice, de liberté, de droits des femmes et des prolétaires qui s'unissent. Comité exécutif communiqué au peuple français. Car on est de ceux qui agissent, on ne fait pas que de le penser. Mais à Versailles se prépare déjà les représailles de bras armés du capital. Ne fait jamais dans le détail les canons sur le mont Valérien. Rappelle que leur vie ne valait rien. Et la suite, merde, c'est putain de sanglant. Ils ont massacré hommes, femmes et enfants. Mais leur mémoire aujourd'hui survit dans nos combats, dans les squats, les salles et les syndicats. It's a long road for the revolution. Got a mixed play for emancipation. No time to waste in the confusion. Contre l'oppression et l'exploitation, pour l'autogestion, contre chaque nation, contre la répression, on veut pas de patron. Unité, pas de séparation. La révolution, c'est la solution. La démolition et l'abolition du système parsé, contre la pollution, la reconstruction, notre mission. Les panneaux seront gardés. 28 mars, la commune proclamée. Le rêve d'un autre monde, d'une autre société. Dans mémoire, aujourd'hui survit dans nos combats, dans les squats, les ZAD et les syndicats. Communard, le rêve va rester. 18 mars, les panneaux seront gardés. 28 mars, la commune proclamée. Le rêve d'un autre monde. Ed ecco sulla scia di queste proteste francesi, appunto si diceva che la polizia si sente in un clima di guerra e effettivamente, come dire, anche certe scene che insomma sono apparse in vari video facevano intendere un certo spiegamento colossale sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte comunque insomma di certe situazioni che si venivano a creare, per cui effettivamente adesso non sta certo a noi dirlo, ma adesso la guerra civile non è una bella cosa, ma sembra che non sia così distante a volte, soprattutto perché dopo la morte di Noël, pochi giorni dopo, cioè la notte fra sabato e domenica scorsa, a Marsiglia è morto accidentalmente un altro ragazzo di 27 anni in seguito a una flashball lanciata dalla polizia, e pare che tra l'altro non sia riconducibile alle proteste, fosse forse un passante accidentale. La situazione è sconcertante. Abbiamo visto che ci sono espropri da parte della gente che davvero entra in concessionari e si piglia dei veicoli, si piglia delle moto, dei motorini, talvolta assalta le questure e gli dà fuoco, talvolta assalta le caserme e si piglia le armi, e insomma davvero davvero davvero davvero interessante come sviluppo, come si evolverà è un po' un'incognita. A questo punto invece passiamo per cambiare totalmente argomento alla situazione che dicevamo poc'anzi sui social, e appunto in particolare dicevamo prima di Twitter, non solo, perché appunto anche Reddit ha reso limitato l'accesso alle sue API a pagamento. Abbiamo un suggeritore qua che ci sta spiegando un attimo. Scusa, cos'è che è successo? Quindi dicelo, non lo riportiamo qua per gli ascoltatori. E lei ero con voi. Sono qui, che faccio prima. A quanto pare chi mantiene applicazioni di terze parti e sfrutta le API di Reddit, che sarebbero un'interfaccia circa standardizzata dagli autori di Reddit per permettere agli sviluppatori di comunicare con la piattaforma senza passare dalla pagina web, quindi appunto gli sviluppatori per esempio di applicazioni che forniscono maggiore accessibilità magari per i non vedenti potevano fino a poco tempo fa liberamente interagire con la piattaforma Reddit e quindi magari permettere ai non vedenti e gli ipovedenti per esempio di interagire con la piattaforma, appunto, cosa che l'applicazione ufficiale di Reddit non supporta. Reddit ha imposto delle tasse sull'utilizzo di queste API, delle tasse per richiesta. Un esempio che aveva fatto scalpore era dell'autore di un client di terze parti molto usato, che avrebbe dovuto pagare 20 milioni di dollari l'anno a Reddit, una cifra che lui non può permettersi, e quindi ha chiuso i battenti della sua applicazione, non è più disponibile. La situazione praticamente è questa. Dopo Reddit, pure Twitter adesso si è, diciamo, chiusa dietro un muro di pagamento. Di registrazione. Di registrazione, ma vabbè, diciamo anche di pagamento, perché se sono uno che fruga molto molto sulla timeline, magari li consumo quei 300 post al giorno. Certo. E qui ah, oddio, come non dicono, so, perché deve fare una ricerca, 300 tweet sono pochi. Se non uno mai vuole fatto. Fare per bene un lavoro e informarsi su Twitter, cosa che tra l'altro era possibile fino a poco tempo fa, 300 Twitter sono veramente pochi, tweet sono veramente pochi, perché sono 5 righe di roba e uno normalmente ne ha bisogno di molto di più per avere una panoramica su quello che... C'è ancora il limite? Di C'è carattere. Ancora il limite di caratteri? No, l'hanno prima raddoppiato e poi forse non c'è più. Addirittura non c'è più il limite di caratteri qua, dicono. Ma io l'ho usato solo per lamentarmi con il mio gestore telefonico Twitter, fino ad ora. Io sono abituata a centinaia di tweet con nei commenti la prosecuzione del discorso, perché... Ah, wow, giusto, ok. Ah, cioè, ma il limite è a 300 tweet, cioè visualizzare 300 tweet o fare 300 tweet? Visualizzare. Ah, ok. Sì. Il limite è visualizzare. Per chi non stava ascoltando, perché chiaramente noi stiamo facendo anche salotto mentre parliamo qua con voi, per cui arrivano input esterni che dobbiamo riportare in maniera prova, ma è un po' complicato, impareremo. In ogni caso, il discorso ritorna sempre sullo stesso punto, cioè i software di informazione stanno chiudendo, i software di opinione stanno chiudendo sempre di più la possibilità alle persone di informarsi anonimamente. E questo, secondo me, è grave. È grave perché noi stiamo fornendo ulteriori dati di profilazione a chi non si sa per cosa, non si sa e per il futuro cosa possono servire. Probabilmente possono rispondervi i romanzi distopici di Asimov, di questa gente, ah, di sicuro non dubbio. Io. Early one morning, new flash wake me out of my sleep. Say three man and a woman, also a picnic. Hey, them lay down dead in a district. I know me no see it, I know me no see it. Hey, me this a only answer we eat. Out with a old beat, out with a old beat. Some say they not no old, some say maybe so old. Volevamo, intanto ci stiamo abbandonando alle memorie, dunque tra le memorie ci sono per esempio l'eco che state sentendo, quello è un Larsen, o meglio non è un Larsen, è solamente un eco di quello che stiamo facendo noi qua. Ma perché sto parlando? Me set fear, police and soldier. Matic in them with it, chopper in them hand. Hey, some have M16 over them shoulder. Za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za. Hey, wa-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Den-den-den-den-den-den-den-den. Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Abbiamo delle TV sempre accese con la videocamera e il microfono, proprio come nel famoso romanzo. A proposito del famoso romanzo, ci stavamo ricordando quando avvenne questo singolare fatto, cioè che il famoso romanzo 1984 di George Orwell, distribuito da Amazon, ricordiamo che Amazon è nata come una libreria nel senso non libreria, un venditore di libri. Amazon nasce per vendere libri, dopo si allargherà fino a vendere qualunque cosa possibile, ma in partenza nasce come vendita di libri. E dunque prima nasce come vendita di libri, poi addirittura farà una sua propria device, che si chiama Kindle, la quale è in grado di leggere i libri scaricati dalla piattaforma di Amazon, e dunque distribuisce i libri gratuitamente, tra cui anche 1984 di Orwell. Ma a un certo punto, circa nel 2010, succederà qualcosa. Il libro ottenuto gratuitamente scaricato sparisce dalla libreria degli utenti misteriosamente, come se ci fosse non si sa, un qualche tipo di controllo, censura da parte di Amazon, che non, non avesse voluto far leggere il libro. Probabilmente si è trattato di un bug, però singolare. Però normalmente quando dicono attacco hacker è perché hanno avuto dei problemi loro, quindi si può pensare che anche in questo caso il bug è stato voluto. E tra l'altro ricorda un altro romanzo famoso che si chiama Fahrenheit 451, che di fatto parla di queste figure professionali che sono i pompieri, ma che per lavoro non spengono gli incendi ma bruciano i libri. Se non ricordo male, quando Amazon cancellò il libro dalle device dei suoi utilizzatori, lo fece di proposito e fu per un problema editoriale, nel senso che ebbe un piccolo problema di diritti sul libro e dunque decise semplicemente di cancellarlo. Ma il punto che fu rilevato era la capacità e la possibilità e la volontà anche di Amazon di andare a cancellare qualche cosa che era già stato regolarmente scaricato e che dunque la gente pensava di averne ormai un accesso, se non addirittura una proprietà, scoprendo invece che no, non avevano nessuna proprietà, gli era stato semplicemente dato in licenza limitata l'utilizzo di un qualcosa che poi è stato revocato. E quindi, ma di fatto non l'avevano neanche scaricato, cioè, sì, sì, cioè erano stati scaricati ma con una device, specie di licenza, una roba, sì, e sì, sì, anche è di cancellare questo delle... fatto, perché significa che c'è un continuo collegamento tra il tuo contenuto. A questo punto non so neanche se poter dire scaricato e chi te l'ha fornito. Cioè, quindi in qualche modo ti mettono le mani nel PC serenamente. Esattamente. E, Amazon ha messo le mani addosso ai suoi utilizzatori. A proposito, possiamo ricordare una roba che sta avvenendo adesso, magari ne parleremo più lungamente alla prossima puntata, ma sta avvenendo con il cambiamento, quello che chiamiamo l'avvento delle AI, delle intelligenze artificiali, stanno sorgendo delle nuove possibilità di utilizzare il web, cioè i contenuti offerti dagli utenti, come si diceva una volta, di cui la rete è piena, nel senso che un'intelligenza artificiale possa essere in grado di analizzare e utilizzare questi contenuti per offrire diversi contenuti, per esempio il risultato di una ricerca, piuttosto che la composizione di un curriculum, piuttosto che la scrittura di un articolo. L'atto di scavare, cercare sulla rete per trovare contenuti si chiama scraping ed è una cosa che è sempre stata fatta. Ci sono addirittura delle aziende che hanno fondato tutta la loro vita, la loro attività sullo scraping, per esempio Google. Ma adesso lo scraping sta diventando leggermente un problema e dunque qualche giorno fa, per esempio, archive.org, una delle più grosse entità e delle più antiche che mantiene contenuti degli utenti fruibili agli stessi utenti, ha lamentato il fatto che sono arrivate delle richieste talmente poderose e talmente continue da mettere in pericolo la solidità dei loro server, cioè del fatto che rischiano di non poterle reggere. E se è aperto il discorso, dovremmo parlare, visto che abbiamo parlato di Twitter, si potrebbe aprire un discorso verso le altre tipologie di informazione o di social media. Le due cose non corrispondono completamente, però si mischiano abbastanza. Se Twitter ha rappresentato per tanti anni una fonte di informazione che andava addirittura a sovrapporsi o a migliorare quella offerta dai giornali, non solo dai quotidiani ma dall'informazione, chiamiamola mainstream, con il fatto che Twitter abbia chiuso l'accesso al di fuori, questa cosa dovrebbe cadere. Perciò qualunque istituzione, qualunque azienda che abbia avuto il bullino di Twitter sul loro sito dicendo seguici su Twitter, dovrebbe dire a questo punto seguici su Twitter se hai un account su Twitter, se non hai un account su Twitter non ci segui più. E dunque staremo a vedere un po' che succede. No, ma di fatto poi la cosa interessante è che fioriscono piattaforme di informazione e di opinione indipendente ogni 4 secondi. Basta ricordare 4chan, ma anche in Italia c'è una cosa che si chiama Sfero. La cosa interessante è che nonostante questi gruppi quantomeno forniscano alla platea la possibilità di non solo esprimere ma di leggere quasi qualunque contenuto, con delle modalità di diffusione non solo pubbliche ma anche piuttosto, oddio, non mi piace tanto il termine, ma direi democratiche, la cosa che capita è che buona parte delle piattaforme di informazione indipendente vengono tacciate come piattaforme di informazione o di estrema destra o comunque di ideali di destra o se no addirittura complottiste. Allora, questa secondo me è una forma di damnatio memoriae moderna. Cos'è la damnatio memoriae? È una cosa che si praticava nell'impero romano, ossia di fronte a un personaggio politico scomodo, a un qualcuno che per qualche maniera, in qualche maniera andava contro alla tenuta statale di Roma, si sceglieva di cancellarne la memoria storica, ossia di cancellare totalmente ciò che era, erano le tracce fisiche e epistolari o libresche prodotte da questa persona o dai suoi collaboratori. E io poi non ho una particolare simpatia per il personaggio, ma si finiva come si finì, come finì Caligola, il re, l'imperatore pazzo, che è ricordato soltanto per aver portato in Senato un cavallo. Allora, che poi non detto fosse vero, godeva di cattiva fama. Ma potrebbe anche essere stato, tra l'altro io l'ho sempre trovato una forma di provocazione abbastanza poetica, resta comunque il fatto che sicuramente delinea un profilo di un personaggio piuttosto eccentrico e anche nel senso ridicolizzabile, mettiamola in questi termini. Possiamo ricordare che c'è stata, forse questa è una delle prime fake news che siano mai esistite, il famoso incendio di Roma fatto da Nerone. Ricordiamo che Nerone in quel momento non era a Roma ma era ad Anzio. Assolutamente, e con questo ci possiamo anche rendere conto che forse nel XXI secolo ricadere sotto gli stessi paradigmi che permettevano di controllare un mondo nettamente meno informato e nettamente meno capillarizzato, cioè, ci rende forse tutti quanti responsabili di questa situazione. Messaggio gratuito. La voce dalle sue mani potrebbe essere spenta o spenta. Grazie. E forse, arrivederci. To the politically minded, here's something I want to say. About the state Ciao. Of the nation. Ciao ragazzi. E ragazze. E ragazzù. E ragazze. Senza prendere per il giro nessuno, davvero. Ciao a tutti. Ciao raga. Ciao. And you try and you try to get out, but you're stuck in it. Well, do they owe us a living? Of course they do. A living, of course they do. Now what's a living? Of course they fucking do. Well, the living that sold me, I'm never gonna get. The whole country's drowning, up to our necks in debt. If you're different, they bust your head. Could care less if you were dead. They'd rather see you drop out than get ahead. Well, do they owe us a living? Of course they do. Owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they do. Owe us a living? Of course they fucking do. Of course they do. can do.